La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 98. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione. Se sono membri del Parlamento non possono conseguire promozioni se non per anzianità. Si possono, con legge, stabilire limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero. L'articolo 98 completa il quadro sulla pubblica amministrazione ponendo tre regole differenti. Innanzitutto, i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione. Questo è un modo per ribadire quanto in fondo già detto nell'articolo 54 sul dovere di fedeltà alla Repubblica e nell'articolo 97 sul principio di imparzialità e buon andamento nella legalità della pubblica amministrazione, nel senso che la pubblica amministrazione è funzionale all'applicazione della legge, quindi all'applicazione delle regole generali stabilite dal Parlamento e non certo funzionale alle regole stabilite dalla politica. Ecco allora che i pubblici impiegati non saranno da ritenere al servizio della politica, ma saranno sempre da ritenere al servizio della nazione. Questa ad esempio è la ragione per cui nell'ambito dei ministeri sono nati i cosiddetti gabinetti ministeriali. I gabinetti ministeriali sono le strutture fiduciarie che accompagnano i singoli ministri, cioè quando un ministro viene nominato sceglierà di aggiungere accanto a sé un proprio staff in cui avrà la segreteria, l'ufficio legislativo, l'ufficio stampa e anche un ufficio di gabinetto che aiuterà il ministro a valutare le pratiche e gli affari trattati dagli uffici. In quanto gli uffici sono al servizio della nazione e quindi il ministro deve dare le sue indicazioni politiche, le sue direttive, potendo studiare le singole pratiche mediante l'ausilio di uno staff. Fin dall'epoca statutaria nacquero gli staff ministeriali e i gabinetti proprio per dare al ministro il possibile supporto tecnico a comprendere meglio le attività della pubblica amministrazione. I commi successivi pongono due regole ulteriori. Innanzitutto, che i membri del Parlamento non possono conseguire promozioni se non per anzianità. Ovviamente questa è una regola storicizzata, nel senso che vuole impedire ciò che invece è accaduto in epoca precedente. In epoca precedente era accaduto spesso che i parlamentari, anche pubblici dipendenti, si trovassero alla fine del mandato parlamentare a conseguire grandi promozioni e quindi la Costituzione lo impedisce specificando che è vero che il pubblico dipendente che diventa parlamentare non perde l'anzianità di servizio, ma non può certo conseguire vantaggi ulteriori dall'essere parlamentare. Interessante la specificazione dell'ultimo comma, perché consente alla legge limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per determinate categorie di pubblici dipendenti, che sono magistrati, militari di carriera, agenti di polizia e rappresentanti diplomatici, perché queste quattro categorie rappresentano attività particolarmente delicate ed ecco allora che il divieto di iscrizione ai partiti politici sottolinea l'imparzialità con cui devono essere svolte le funzioni dai magistrati, dai militari, dagli agenti di polizia e dai rappresentanti diplomatici.